Salve a tutti, sono Stefania, questa è la 19ª puntata, me lo ha suggerito il mio amico Giorgio, sono qui insieme a lui, Radio Big World, e oggi mi era venuto in mente di parlare con voi di pensieri sparsi, pensieri che mi vengono, riflessioni sul nostro stato attuale delle cose. Da quello che avete già sentito nelle mie precedenti puntate, avete potuto constatare che sono una persona non ottimista. Lo dicevo ora ai miei amici, non sono per niente ottimista, però io spero sempre e mi adopero insieme agli altri, insieme appunto alle persone che mi stanno vicine, che mi amano e che io amo, di continuare questo percorso di interessamento di quello che ci sta succedendo. Tempo fa volevo scrivere un libro, appunto, e lo volevo intitolare Non capisco, perché tante sono le cose che io non capisco. E queste parole sono rivolte soprattutto a loro, a quelli che non capiscono o a quelli che presumibilmente dicono di capire, il che comunque è parecchio arduo, a tutti coloro che volontariamente o involontariamente, e forse dico anche inconsapevolmente, sono gli artefici della complessità in cui viviamo e che francamente, con tanta mia buona volontà e sicuramente con i miei innumerevoli limiti, io non capisco. Io sono una populista, non sento sussulti di pancia ogni qualvolta i nostri politici parlano appunto della pancia stessa e non vado per niente alla grande. Sono una cittadina attenta, credo. Cerco di informarmi su tutte quelle questioni che sono tante, che secondo me hanno una valenza estremamente importante per il futuro della nostra specie. Probabilmente queste osservazioni sono scontate e le osservazioni che farò sono scontate e banali, ma è proprio questo il bello, perché sono banali e scontati, dovrebbero essere semplici e facili da capire e da raggiungere. E invece sembra che non sia così. Questo mi fa fare davvero dei salti acrobatici nel vuoto e sprofondo sempre più nella non comprensione. Da tanto sono confusa, non so da che parte iniziare, perché ho un pensiero e immediatamente ne arriva subito un altro, che penso sia più importante di quello precedente. Però vorrei partire dal tema che conosco forse un sinsinino di più. Voi sapete che io ho avuto l'opportunità, grazie ad un'associazione che si occupa di cooperazione internazionale, di fare un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, ne ho parlato tanto. Quest'Africa è che è terra di grandi bellezze e di grandi ricchezze, terra di povertà, terra di grande corruzione, terra di grandi sfruttamenti. Il nucleo del mondo, noi Homo sapiens ormai lo sappiamo, deriviamo da lì, veniamo tutti da lì. Ed è obiettivo delle peggiori menti che popolano il pianeta per depredare e per calpestare. Però questo lo sappiamo tutti o quasi tutti. Quello che penso ci sfugga o che sfugga comunque a tutti coloro di buona volontà è che noi, proprio noi, siamo gli artefici principali, nostro malgrado, di queste dinamiche distruttive. Le nostre scelte quotidiane, i nostri acquisti compulsivi degli strumenti elettronici, tentando di stare sempre all'avanguardia, ci portano all'acquisto inconsapevole di quello che stiamo acquistando. Forse ve l'ho già detto che nella Repubblica Democratica del Congo ci sono tanti minerali, il coltan è uno di questi. Se noi fossimo, e il coltan serve per fare quegli apparecchietti, ve l'ho già detto, se noi fossimo più consapevoli di questo, probabilmente compreremo sempre questi nostri apparecchi, però probabilmente li compreremmo quando si guastano e non quello all'ultima moda. Ecco, ma sono piccolezze, queste sono proprio inerzie, però guardate che siamo noi che facciamo il mercato. Noi, povere pedine qua giù dal nostro basso, che con le nostre misere scelte che facciamo il mercato e facciamo le scelte e indirizziamo le scelte di quei potenti che ci stanno manovrando. Cioè è come chi è nato prima l'uovo o la gallina, però riflettiamoci su questo. Sicuramente i processi di evoluzione e involuzione di un popolo non inizia dall'oggi al domani. Il terreno era già fertile per seminare e avviare un processo di progresso e di disfatta. Le contestazioni per ottenere più diritti, che sono sacrosante, i nostri padri hanno lottato per avere una vita senza schiavitù, senza sfruttamento, senza discriminazioni e ci sono riusciti. Grazie, ci sono riusciti. Sono riusciti ad ottenere quei pochi diritti che ci avrebbero garantito una vita dignitosa. Peccato che noi figli, poi, non siamo stati capaci di continuare in quella strada e abbiamo confuso le parole come libertà e democrazia e diritti e abbiamo omesso la parola dovere. Che se la memoria e la mia poca facoltà interpretativa non mi sono avverse, non ricordo di avere sentito a sufficienza. Perciò dai diritti siamo passati ai privilegi per pochi e la fame per molti. Siamo arrivati a un punto che non crediamo più nella politica, o meglio nei nostri politici. I motivi ne hanno dati tanti. E sembra che non si arrestino mai, ma davvero ci possiamo ritenere innocenti di quello che sta accadendo? Fino a quando ci andava bene, lavoro per la maggior parte di noi, pensione assicurata, progresso, qualcuno dei sessantenni può dire davvero che quando avevamo 30 anni eravamo tanto visionari e preparati per dire no a quella vita e che prevedevamo tutto questo? Però era tutto scritto, con il senno del poi, era tutto scritto, leggendo la storia, la nostra storia, era già tutto sotto i nostri occhi, tranne magari così qualche sfumatura qua e là, però come si dice, con il senno del poi sono tutti bravi. L'ho detto, l'unico Pierpaolo Pasolini aveva visto lungo, ma questo ve l'ho già detto, però noi non siamo Pierpaolo Pasolini. O per fortuna o per sfortuna. Una vita fatta di espansione, di tecnologia, di televisione, troppo forse e troppo presto. Ci siamo ubriacati e resi dipendenti, annullandoci per incontrare e volere quello che ci veniva proposto, una vita felice. Peccato che la felicità non venga dall'avere, ma dall'essere. In quel tempo nessuno ci ha insegnato ad essere e strada facendo abbiamo perso quella strada maestra per addentrarci in corridoi stretti e talvolta senza via d'uscita. Era il 1968 e io, lo sapete, ho 60 anni, quindi ero un'adolescente problematica e anche tanto fragile. Ci hanno fatto credere che per stare bene dovevamo conquistare la nostra libertà, senza spiegarci che la libertà si conquista riuscendo a stare dentro alle regole della democrazia. Un concetto semplice, però è sfuggito ai più. È sfuggito ai nostri educatori, rendendoci così quasi quasi il popolo di Barabba. Ci sono state dette tante frottole e noi le abbiamo bevute, per incapacità o per poca cultura su certi temi, o per scarsa informazione, o, come penso, per un progetto di soli pochi a discapito dell'umanità. Oggi sono sessantenne, lo sapete, guardo i miei nipoti, mi dispiace tanto di consegnare a loro un mondo guasto, perché è un mondo guasto, nel quale dovranno fare i conti con i tanti rimedi che ne richiederà. Spero ci possano essere tanti medici per questo, e spero possano riuscire a fare il loro lavoro con serietà e professionalità. Spero. Però aggiungo una piccola cosa. Ultimamente ho visto una trasmissione in televisione, Report, che ci ha fatto un programma e ci ha fatto vedere una cosa per me davvero molto molto preoccupante. L'idea di inserire nel cervello umano dei microchip a vantaggio di un'intelligenza superiore. Ecco, questo naturalmente in mano a dei criminali. Immaginate voi che cosa può. Qui non c'è bisogno di essere visionari, preparati, competenti, informati. Qui basta rifletterci un secondo e immaginare che cosa potrà essere il mondo tra 20 anni con questi presupposti. Speriamo non sia così. Grazie e alla prossima.